Honda CB1000R. Dopo la Hornet 900 e la X11, la Honda torna nel segmento delle Maxi Naked con una moto progettata tra Italia e Giappone. Una nuda versatile dalla facilità incredibile in relazione alla cilindrata. Nome: Honda CB1000R. Dimensioni: interasse 1445 mm, peso in ordine di marcia e col pieno di carburante 217 kg. Motore: 4 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddato a liquido. Cilindrata 998 cm3, distribuzione a 4 valvole per cilindro, alimentazione a iniezione elettronica. Potenza: 125 cavalli. Trasmissione: frizione multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, cambio a 6 marce, finale a catena. Freni: a doppio disco anteriore da 310 mm, posteriore da 256 mm. Prezzo: 10.400 euro, chiavi in mano.